tornato, per allora c'è proprio un microfono meglio di quello, ma comunque il minimo di massimo ci sceglie, a poi dici. Positivo, Clark. Allora devi stare attento, Giappa, di non fare lo sbaglio che tu alzi i fatti con il lineare spento e poi non ricordarti dei fatti e tu attacchi il lineare. Se tu c'hai quei fatti sollevati, ma non lo dico a metà di crepa un lineare, te lo scoppia completamente, te lo sto dicendo, quello lavora bene con due fatti, è fatto quel baracchino per lavorare, che è una potenza enorme, per lavorare con due fatti. Se tu fai lo sbaglio che ti dimentichi che hai sollevato i fatti e accendi il lineare, lo devi buttare via quel lineare, te lo sto dicendo già in partenza, e stai attento a non fare quello sbaglio lì. No, lo faccio così, papà, non ci sono problemi, dai. No, l'ho appena aperto, lo squerci, quindi faccio così, già va bene. Poi se c'è, devo passare qualche cosa, capito? Io non so. più bella corposa e più, diciamo, tipo quella voce mia quando modulo io mi grossa, capito mai? Con quella linea di Torino, mi pare proprio. sono fatti apposta per combattimento. Quello su quando gli attacchi in lineare, quelli sono tutti fatti apposta per dirottare il lineare. Infatti tu non ti cambia niente, guardate, fai meglio quando gli metti il lineare rispetto a tante altre radio. E devi viaggiare con due fatti. Se tu senti, tu chiami a Piero Bumacqua e ti dice non andare oltre i due fatti. Quella radio lasciala, lui deve mettere l'equazione dei fatti a salire, a fare. Ma non c'è bisogno, perché tu con quei due fatti, se attacchi il wattometro, ti rendi conto che quei due fatti lì ti stanno i picchi quasi di 27, i picchi salgono quasi a 27 metri, se tu la nutti con quei due fatti. Con la radio solo, con un baracchino tipo quello.